Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in cui, come sempre, come ogni venerdì, abbiamo anche l'appuntamento con la poco invidiabile classifica di Focus Economia sugli sprechi. Devo dire che oggi più che mai, o meglio oggi come altre volte, questa rubrica potremmo girarla tranquillamente al commissario alla Spending Review Gutgeld, al di là delle polemiche sulla spending review che abbiamo fatto anche noi, che è molto molto più bassa delle attese. I 10 miliardi di Cottarelli sono diventati 5 miliardi e diciamo di razionalizzazione se ne è vista ancora poca. Abbiamo degli spunti interessanti per quello che riguarda per esempio le spese sanitarie, laddove abbiamo sempre criticato i tagli lineari alla sanità. Detto questo, vai a vedere i raffronti tra ospedali che chiudono in leggero attivo e ospedali che perdono decine di milioni e ti accorgi che il problema non è solo di trasferimenti Stato, Regioni o Regioni sugli ospedali, ma è anche il problema di come vengono fatti gli appalti e il numero di, non medici e infermieri magari, ma di amministrativi presenti e dei costi degli appalti. Abbiamo praticamente su 5 notizie della top 5, 4 riguardano gli ospedali. Oggi diciamo è una puntata abbastanza ospedaliera. Per quello che riguarda, chiaramente non metteremo nella classifica, ce ne siamo occupati ieri, la vicenda allucinante, per non usare altri termini, sia del casino di Sanremo, non del casino di Sanremo, che dell'ANAS. Però ascolteremo invece anche oggi una dichiarazione che ha rilasciato ai nostri microfoni il presidente attuale dell'ANAS Armani, proprio su questo giro di mazzette spaventoso che sta emergendo da questa, com'è che l'hanno chiamata, la Lady Nera, la Dama Nera, sì, Dama una volta era un complimento, per cui usiamo anche un altro termine se vogliamo, perché Dama era una signora elegante, non una mazzettara da quello che sta emergendo di bassissima categoria. Comunque, e arriveremo anche a lei. In realtà ci sono altre notizie che riguardano lo spreco, diciamo, di risorse pubbliche. Per quello che riguarda le sedi INPS, qui ci sono oggi arrivata la notizia che sono state perquisite alcune sedi dell'INPS, nel caso specifico questo riguarda la direzione generale dell'INPS e tutti i capoluoghi di regione, da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore Salerno. Quindi è un nuovo filone investigativo della maxi inchiesta denominata Mastro Lindo. Io devo dire che la fantasia, l'inchiesta su Sanremo si chiamava Stakhanov, bellissima, e questo si chiama Mastro Lindo. 44 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di imprenditori e professionisti, sequestro preventivo di beni per un valore di 140 milioni di euro, relativamente alla costituzione di diverse aziende inesistenti situate nell'agro nocerino sarnese e operanti nel settore del terziario, come ditte di pulizie e quant'altro. C'erano migliaia di falsi rapporti di lavoro al fine di conseguire indebite prestazioni assistenziali e previdenziali, quindi indennità di disoccupazione, maternità, malattia. Cioè non esistevano, erano tutti fittizi questi uffici, però in quel modo potevi chiedere il rimborso INPS per appunto maternità, malattia e l'indennità di disoccupazione. Sono coinvolti anche i dirigenti, perché il nuovo filone vede anche, ha visto perquisire anche la direzione generale dell'INPS, come ricordavo. Nel database dell'istituto sarebbero stati inseriti dati falsi, maggiori di quelli reali, relativi alle ispezioni effettuate e ai rapporti di lavoro annullati. Perché questo? Perché uno inserisce un numero falso più alto del reale delle ispezioni effettuate e dei rapporti lavorativi cancellati in seguito alle ispezioni? Perché in questo modo il dirigente otteneva il bonus, il premio di produzione, perché va dimostrato che aveva lavorato bene con molte ispezioni, cancellando anche i rapporti di lavoro falsi. In questo modo, infatti, scrive la Guardia di Finanza, la Procura e la Guardia di Finanza, si raggiungevano gli obiettivi prefissati dalla direzione generale in modo da ottenere i premi di produttività a dirigenti e funzionari. Pensate che in 2 anni, in questo modo, l'INPS ha erogato premi per 400 milioni di euro non dovuti a dirigenti e funzionari INPS che avrebbero immesso nel sistema informatico dati falsi sulla loro attività dirigenziale. è l'ipotesi appunto falso ideologico, truffa aggravata ai danni dello Stato, piena collaborazione da parte dell'istituto, e va bene, di questo parleremo come sempre anche della borsa che guadagna lo 0,60%, molto meglio fa Parigi più 2,5%, Francoforte più 2,70%, Londra più 1,20%, l'America più 0,60%, non c'è un motivo specifico, nel senso che il titolo che più cale è UniCredit meno 1,40%, poi Pop Emilia Romagna meno 1,20%, UbiBank meno 0,80%, Eni perde lo 0,70%, sono titoli soprattutto Eni e UniCredit che pesano molto nella composizione dell'indice. Le altre borse risentono ancora delle parole di Mario Draghi di ieri, e poi c'è un buon dato dell'indice PMI europeo, adesso lo racconteremo. Bene va Azimut più 5,30%, Telecom più 4,90%, Moncler più 4,70%, Ferragamo più 4,5%, Tod's più 3,40%, come Buzzi Unicem il 2,60% lo guadagna Mediolanum, il 2,30% Mediaset, il 2,20% CNH Industrial, Prismian, Saipem, Fiat ed ST Microelectronics guadagnano tutte il 2%. Parleremo anche dell'alluvione del Sannio, la nostra Raffaella Calandra è da ieri che fa collegamenti, interviste e inchieste sui danni dell'alluvione, se ne sono occupati un po' poco forse i giornali, però l'alluvione che ha messo in ginocchio alcune produzioni importanti del Sannio, penso alla produzione dell'agricoltura, un danno di 1 miliardo di euro stimato, 500 richieste di cassa integrazione per alcune aziende importanti in una regione ad alta disoccupazione, penso al pastificio Rummo appunto di Benevento. Insomma, ne parleremo con Raffaella Calandra, perché è il caso di non dimenticare, come abbiamo sempre fatto, che si trattasse di Vicenza o di altre aree di questo paese, di non mollare il colpo finita l'emergenza intesa come emergenza gestionale, capire anche che cosa succede, come ricaduta e negativa sul fronte economico. E poi anche il rapporto sui migranti. Dicevo 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Parleremo anche del collocamento delle poste in borsa oggi presentato, parleremo anche delle commenti che ha fatto il ministro dell'economia Padoan durante il convegno annuale dell'ANM a Bari sulla famosa soglia dei 3.000 euro. A mio avviso il governo si sta incartando su questo, cioè siccome non esiste un motivo economico per portarla lì, sta emergendo palesemente che è un motivo politico elettorale, diciamocelo tutto. Non voglio fare però preciso un'altra puntata sui 1.000-3.000 euro. Allora partiamo dalla Cina, che oggi ha tagliato i tassi di interesse dello 0,25%, ridotto dello 0,5% anche il coefficiente di riserva bancaria. Che cosa vuol dire questo? Sostanzialmente che la Cina sta cercando, sta continuando a vedere se riesce, abbassando il costo del denaro, a tenere l'economia un po' su, visto che è difficilissimo che possa centrare quest'anno l'obiettivo di una crescita del 7% del PIL, se va bene sarà al 6,8-6,7. Il tasso di interesse sui prestiti bancari è sceso dal 4,6 al 4,3%. Cosa serve abbassare il tasso di interesse? In modo che uno sia meno invogliato a tenere i soldi in banca e a rimetterli in circolo nell'economia, e anche a generare un po' più di consumi interni. E il tasso di interesse corrisposto sui depositi scende dall'1,75 all'1,5%. Sempre su questo tema, ma andando in Europa, la Banca Centrale Europea oggi ha diffuso altre stime sull'inflazione. Insomma, l'inflazione non sta ripartendo, questo è un male nell'area euro. La stima per il 2015-2017 vede una ridursi ulteriormente la stima dell'inflazione all'1% nel 2016 da 1,3%, nel 2017 all'1,5% contro l'1,6%, quest'anno dallo 0,2% previsto allo 0,1%, per cui siamo in, non dico in deflazione, ma in assenza di inflazione. Ancora per quello che riguarda sempre la Banca Centrale Europea, la stima sulla crescita economica invece sale. Per il 2015 dovrebbe fare l'area euro l'1,5%, per il 2016 invece dall'1,8% viene limata all'1,7%. Da dall'Unione Europea veniamo a sapere che oltre all'Italia solo Austria e Finlandia hanno fatto richiesta alla Commissione Europea di utilizzare la clausola di flessibilità, cioè avere un deficit più alto del previsto per i costi imprevisti dovuti alla crisi dei rifugiati. Lo ha reso noto il portavoce della Commissione, Margaritis Skinias, ricordando che l'esame dei piani di bilancio dei paesi europei è ancora in corso e che la valutazione finale arriverà al più tardi entro novembre e dovrà tener conto delle previsioni economiche in programma che verranno diffuse il 5 novembre. Arriveremo poi nella seconda parte anche alle dichiarazioni, ripeto, del ministro dell'economia Padoan, ma anche del presidente della conferenza delle regioni Chiamparino sulle tasse locali. Due dati ancora, poi arriviamo alle poste. Oggi il dato sul commercio è un dato positivo: le vendite al dettaglio ad agosto sono aumentate dello 0,3% rispetto a luglio, ma soprattutto, cosa più importante, dell'1,3% rispetto ad agosto del 2014. I consumi crescono soprattutto per calzature, articoli in cuoio e da viaggio, più 2,3% anno su anno, e prodotti di profumeria, più 2,3%, giochi, giocattoli, sport e campeggio, più 2,2%. Invece, per quello che riguarda il fatturato dell'industria, il dato di oggi non è buono. È riferito sempre ad agosto, però anche guardandolo rispetto all'agosto del 2014 c'è un calo del 2,4% e sugli ordinativi invece c'è un aumento del 2,1% rispetto sempre all'agosto del 2014. Ora, nella come dicevano una volta chi aveva studiato e chi si occupava di discussioni filosofiche, la vexata questio del rapporto tra banche e i chierici, ecco il termine che mi veniva, la vexata questio tra banche e imprese su stanno aumentando o no i prestiti, non risulta, l'ABI dice che però c'è un aumento. Allora, oggi c'è un rapporto di Mediobanca che va a guardare come si sono mosse le banche tra 2005 e 2014 e hanno concesso prestiti a imprese e famiglie con un tasso di crescita medio annuo dell'1,5%. Le erogazioni delle banche commerciali diverse dalle popolari delle BCC sono state ancora minori, dello 0,1% all'anno. A mio avviso questo taglia la testa al toro alla polemica, ma noi abbiamo sempre erogato, adesso eroghiamo meno. No, il dato è abbastanza deprimente. Le poste italiane. Allora, il prezzo dell'offerta che partirà la settimana prossima è stabilito a 6,75 euro, quindi a metà esatta tra la forchetta che andava tra i 6 e i 7,5 euro. Ai risparmiatori verrà dato il 30% dell'offerta globale, agli investitori istituzionali, quindi banche, fondi, il 70%. L'oggetto in ballo ci sono quasi il 35% delle azioni totali, in 38% in caso di integrale esercizio dell'opzione Green Shoe, insomma viene messo in borsa il 35% delle poste italiane. I dipendenti delle poste che hanno chiesto di sottoscrivere le azioni sono 26.000, in totale chi ha già chiesto di poter partecipare al collocamento come risparmiatori sono 303.536 risparmiatori, con un numero importante. E tra l'altro il Ministero del Tesoro ha fatto notare che gli investitori istituzionali sono di altissima qualità sia per tipologia che per provenienza geografica. Il Tesoro incasserà con la quotazione delle poste italiane 3 miliardi e 400 milioni di euro. Ricordo a tutti però che per legge italiana e per legge europea questi soldi non possono essere messi in manovra finanziaria, cioè non possono essere usati per la manovra di bilancio, devono essere messi tutti a riduzione del debito. Per cui anticipo già la domanda: cosa farà il governo di questi 3 miliardi e 400 milioni? Nulla, perché è obbligato a metterli per ridurre il debito. E il ministro dell'economia Padoan ha detto: si tratta, quella delle poste, della più importante quotazione a livello europeo nel 2015. Questa è un'operazione che conferma la fiducia dei mercati nell'impresa, ma la fiducia dei mercati anche nel paese nel quale opera questa impresa e quindi l'Italia. Aggiungo, tanto per rammentare il fatto che fino ad ora è la più importante applicazione dell'anno in Europa, certamente è una delle più importanti di questi anni, quindi è un'ulteriore dimostrazione che il paese è alla frontiera delle capacità manageriali, imprenditoriali e innovative. E poi il numero uno delle Poste italiane, l'amministratore delegato Francesco Caio, che ha aggiunto: questa operazione è stato un bel successo per le Poste, per tutto il paese, un esempio di come si lavora bene quando si fa squadra. Abbiamo portato Poste in giro per il mondo e adesso inizia una bella fase per noi, per il paese. Il prezzo lo fa il mercato, comunque siamo molto contenti. Mi sembra che sia un bel successo non solo per Poste ma per tutto il paese, anche l'esempio di quando si lavora bene in squadra fra aziende e istituzioni, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dello Sviluppo Economico, soprattutto col MEF. Abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo portato l'Italia in giro per il mondo, adesso inizia una nuova fase, spero anche per il paese. Ho sempre detto che il prezzo lo fa il mercato e ha fatto un bel prezzo e come al solito il mercato sempre ragione, siamo molto contenti. Il mercato ha scelto di investire, è andata secondo le aspettative di un'azienda che si porta un'esperienza grande, che può servire il paese e che fa parte di un piano di riforme che il governo ha avviato, che mi sembra si stia realizzando. Proprio sulla quotazione delle Poste italiane si concentrano i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, la firma oggi del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La quotazione delle Poste ha fissato un prezzo a 6,75 euro per azione, con un incasso per lo Stato di 3,4 miliardi e una richiesta di 3,3 volte superiore all'offerta messa sul listino. Si sono prenotati, tra gli altri, i grandi fondi sovrani, Cina, Kuwait, Norvegia, già molto attivi sul listino italiano, e i grandi fondi investitori istituzionali del mondo anglosassone. Un successo, insomma, anzi un grande successo, ha detto il ministro Padoan, la più grande privatizzazione in Europa degli ultimi anni. Ora toccherà Ferrovie ed ENAV. La quotazione della Ferrari a Wall Street invece ha segnato al debutto il record del titolo più apprezzato del mondo, nel senso del più caro, perché a poche ore al debutto ha segnato un balzo del 15% ed è arrivato a valere 35 volte il valore dell'utile dell'azienda e ha superato in questo il titolo di Hermès, finora indiscusso re del lusso, con un rapporto prezzo-utili di 34 volte. La casa madre FCA guadagnerà 982,4 milioni di dollari, pari a 885 milioni di euro, grazie al piazzamento del 10% del capitale a Wall Street. Ma cosa hanno in comune l'operazione Poste e quella Ferrari? Sono entrambe il segno di un valore del marchio Italia, basta solo volerlo capire. Le Poste hanno unito l'Italia con le biciclette di portalettere, ma un secolo dopo erano diventate un carrozzone clientelare, feudo del sottogoverno. Da qualche anno in realtà sono diventate poi un gruppo aggressivo e competitivo su scala internazionale, con un modello di business unico al mondo tra consegna della corrispondenza, logistica e finanza. Ferrari, che dire, è il marchio più conosciuto del mondo, il mito della velocità e dell'ingegneria che si fa ora realtà anche per i risparmiatori. Qualcosa indubbiamente sta cambiando nel nostro paese, nella percezione dei suoi talenti. È una sfida che l'Italia, forse più che farla al mondo, fa anche a se stessa. Purtroppo, quando il paese ritorna a quello dei vigili in mutande che timbrano i cartellini per chi è assente, o quella della corruzione delle dame nere, davvero ti prende lo sconforto e capisci che c'è ancora tanto da fare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. I 100 secondi di Radio 24 di Alberto Orioli hanno praticamente lanciato il nostro poco invidiabile appuntamento e poco invidiato appuntamento del venerdì. Ricordo che i 100 secondi vanno in onda anche su Radio Dimensione Suono, che è un appuntamento. Alcuni mi dicono: vediamo se anche questa volta 4 regioni su 5 saranno del sud. No, non necessariamente, però è quasi una puntata monotematica, perché eccezione fatta per il quinto posto, tutto il resto riguarda la sanità. Abbiamo escluso volutamente Sanremo, il casino e la dama nera. Ripeto, dama è un cosa elogiativo, è un termine elogiativo, non è che si può chiamare dama una che in tasca mazzette dovunque. Detto ciò, così come l'INPS l'abbiamo raccontata come notizia, andiamo come sempre anche nei meandri, cercando di dare a Mr. Spending Review Joachim Gutgeld degli spunti per lavorare. Poi lo stiamo cercando, lo avremo ospite, perché ci sono gli scandali su cui indaga la Guardia di Finanza, la Procura, abbiamo visto cosa è successo nell'INPS, lo raccontavo poco fa, ma ci sono anche piccole cose che andrebbero limate. La spending review vuol dire revisione della spesa, non solo taglio, vuol dire spendere meglio, non solo spendere meno. Comunque, partiamo dal quinto posto. Qui non c'entra la sanità, ma c'entra l'ATAC, l'ATAC di Roma, l'azienda dei trasporti romana, che ci fornisce sempre tanti elementi. Abbiamo raccontato più volte che come l'ATAC abbia 12.000 dipendenti, 12.000, 2.000 in più di Alitalia, con autobus che hanno un'età media di 10 anni e praticamente ne sono utilizzabili solo un poco più della metà. Abbiamo raccontato del buco dell'ATAC, che insomma ha un'esposizione finanziaria per 874 milioni e il comune la scorsa estate l'ha dovuta ricapitalizzare. Perché lo dico? Perché è uscito il dossier dell'anticorruzione sull'ATAC e si sono accorti che c'è qualcosa che non va, per essere buoni, negli appalti affidati negli ultimi 5 anni per oltre 2 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di cifre importantissime. Ebbene, migliaia di contratti per servizi di fornitura e manutenzione che nella maggior parte dei casi sono stati siglati con trattativa privata e quindi violando il codice che regola i lavori pubblici. L'azienda adesso ha 30 giorni per rispondere, per presentare, come si chiamano, le proprie controdeduzioni, ma insomma, la scelta di procedere senza pubblicazione dei bandi di gara aveva fatto chissà perché. Perché dai, io posso anche capire, non hai fatto i bandi di gara, hai fatto trattativa privata e scopriamo che i prezzi degli appalti, che i costi degli appalti sono calati. Dici, beh, forse hai fatto bene, anche se non hai rispettato la legge. Ma in realtà aver fatto ricorso alla trattativa privata ha fatto alzare in maniera vertiginosa i prezzi, ma guarda un po', provocando un danno economico appunto a chi già perde quasi un miliardo di euro l'anno. Allora, è stato l'assessore Stefano Esposito a chiedere la verifica per il periodo compreso tra il 2011 e il 2015. Beh, ci sono appalti e affidamenti interessanti. Per esempio, come si fa, come si fa a spendere 162.000 euro per attivare il servizio di locazione con facoltà di acquisto di 5 veicoli elettrici per il progetto Christmas Shopping? Allora, Christmas in inglese vuol dire Natale. All'ATAC Natale durava tutto l'anno, però immaginiamo che sia il Natale che conosciamo anche noi. Allora, tu acquisti locazione, cioè noleggio con facoltà di acquisto, 5 veicoli elettrici, che naturalmente cambieranno la viabilità di Roma in maniera radicale, per il progetto Christmas Shopping, e cioè insomma, immagino aiutare tutti i romani che vanno nel centro storico per fare le spese di Natale, e ti costa 162.000 euro. Quanto dura il Natale all'ATAC? Dura 2 settimane? Dura 3 settimane? A me sembra che sto Christmas Shopping fosse più per chi ha fatto l'affido e ha comprato e ha preso a Nolo i 5 mezzi. Lì lo shopping l'ha fatto sicuro e anche Natale se l'è garantito. Ma andiamo avanti. 1.200.000 euro spesi dall'ATAC per il servizio di noleggio operativo full service. Capirai, cosa sarà il noleggio operativo full service? Un aereo? No, 460 macchine fotocopiatrici digitali multifunzionali a colori e in bianco e nero. Magari pulissero pure i bagni, andava bene. Collegato alla rete aziendale di ATAC in configurazione base con opzioni per la durata di 50 mesi. Oh, al di là di questo, sapete quanto è costato noleggiare 460 fotocopiatrici all'ATAC? Ogni macchina è costata 2.570 euro. Ora, se qualcuno mi dimostra che è più conveniente noleggiare 460 macchine fotocopiatrici al costo di noleggio di 2.570 euro l'una per un totale di 1.200.000 euro, lo porto qua a condurre Focus Economia da qui all'eternità. Ma non basta, perché l'ATAC è riuscita a spendere anche 1.600.000 euro per l'affidamento triennale per la gestione, conduzione e manutenzione programmata di 91 servizi igienici automatizzati installati presso le stazioni delle metropolitane. Anche qui fanno 18.000 euro a servizio igienico. Della serie, quando è d'oro, no? Nel senso. E poi ci sono gli appalti concessi per il noleggio dei veicoli senza conducente. Il noleggio dei veicoli senza conducente, NCC, e poi 4.000 euro spesi, questa è bellissima, 4.000, non sono tanti, ma sono 4.000 euro spesi per effettuare test e analisi dei tessuti per la gara per il rinnovo delle divise. Ma che è Buckingham Palace? Test e analisi sui tessuti, immagino tu all'ATAC, laboratori che analizzano il tessuto, microfibra, no, traspira, non traspira, analisi, test per i tessuti, per la gara, per il rinnovo delle divise, 4.000 euro solo per stare... Meteo. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, adesso, visto che gli altri quattro posti della classifica sono tutti legati alla sanità, e che sanità, e sono suggerimenti su cosa si può tagliare, o meglio si può risparmiare magari usando questi soldi per migliorare la nostra sanità, soprattutto al sud, non ce l'abbiamo una cosa tipo un medico della mutua, una cosa del genere? Una volta non c'era la mutua e i medici se la passavano bene, quasi tutti diventavano ricchi, alcuni ricchissimi. Una laurea in medicina era una gran laurea. Oggi purtroppo c'è la mutua. Succhi il sangue di noi medici, dei mutuati, dei padroni e lo trasforma in grattacieli con corridoi, uffici, ascensori, usceri, dattilografi, impiegati, capi, dirigenti amministrativi, direttori sanitari, medici, funzionari e controllori. Tutta roba fatta apposta per tarpare le ali alla nostra libera professione. Allora, ci sarebbe il caso, ma lo saltiamo rapidamente, hanno beccato un falso medico. Io dico, l'ordine dei giornalisti controlla le lauree dei medici. Ha esercitato la professione medica per 37 anni, ha lavorato in 4 ospedali in Veneto e in Trentino. Lui si chiama Andrea Stampini, ha 65 anni, è ferrarese, da 2 anni è pure in pensione, ma pensate che è arrivato ad essere anche primario di ginecologia ed ostetricia all'ospedale di Riva del Garda. Ora, tutti i bambini nati in questi anni appunto, si toccano, perché insomma, che cosa hanno scoperto dopo 37 anni, dopo 2 anni che era in pensione? E beh, si erano accorti che non si era mai laureato, non aveva mai conseguito né la laurea in medicina né l'abilitazione professionale, un dettaglio quando fai il primario di ginecologia e ostetricia. Tra l'altro l'Ordine di Ferrara ha cancellato il suo nome dall'elenco dopo aver appreso dall'Università di Bologna che non si è mai laureato. Stampini aveva dichiarato di aver conseguito la laurea, di aver superato l'esame. Il problema è che fa sapere, lui aveva detto che ha lavorato in 4 ospedali, fanno sapere, il presidente dei medici ferraresi dice, quando cambi lavoro o vieni assunto come medico in un altro ospedale, nessuno ti chiede la laurea o l'abilitazione, che già questo è un po' strano, portami la laurea, no, perché il requisito indispensabile per esercitare la professione è l'iscrizione all'ordine. Questo è un paese bellissimo, non solo io li abolirei tutti gli ordini per come sono fatti adesso, ma basta essere iscritto all'ordine. Dici, vabbè, perché sarà l'ordine che controlla che ti sei laureato e hai l'abilitazione professionale? No, non l'ha mai fatto. Se n'è accorto adesso, l'ordine dei medici ha chiesto a Bologna, scusatemi, vi risulta laureato questo che, diciamo, ha lavorato per 37 anni nelle strutture sanitarie nazionali? No, non ci risulta laureato. Ah, grazie, tanto è in pensione da 2 anni. Adesso c'è un'inchiesta per esercizio abusivo della professione, però è un po' tardi, nel senso che... E tra l'altro gli enti dove ha lavorato potrebbero chiedere al falso medico la restituzione degli stipendi. Allora, andiamo avanti, perché al terzo posto, e qui si è messi veramente, iniziano i dolori, visto che parliamo di medicina, in Campania sta ripartendo, ammesso che si fosse mai fermata, la fuga di migliaia di pazienti negli ospedali del nord. Questo ha un costo però, perché Il tentativo che stanno facendo le ASL campane di risparmiare riducendo le ore operatorie e sottoutilizzando le strutture fa sì che le liste d'attesa si allunghino, e quindi do dei numeri, proprio per dare un esempio: all'ospedale Pascale si va da una media di 122 giorni fino a 130 giorni per un intervento di tumore alla mammella. Uno si augura che non sia... come fai a augurarti che non sia grave un tumore alla mammella, dai? Da 94 a 113 giorni per i tumori alla prostata, sapendo che sono tumori fulminanti, capirai, no? 100 giorni, fai tempo. Da 58 a 161 giorni per i tumori dell'utero. Stiamo parlando di tumori, non di visite dell'epidermide, no? Da 34 a 88 giorni per i tumori del colon retto, e dai 17 ai 40 giorni per i tumori ai polmoni, che va un po' meglio. Se uno poi ha un problema alla tiroide, pensate che in 3 mesi all'ospedale Pascale si sono registrati solo 6 giorni di interventi, con una lista di attesa di interventi alla tiroide che è lunga 6 mesi. Ma come cavolo fai a operare solo 6 volte in 3 mesi? Beh, su 3 sale operatorie, ci sono 6 le sale operatorie disponibili, 3 sono chiuse. Quelle aperte lavorano dalle 8 alle 15. Giustamente, no? Intanto hai un tumore, che te frega. Aspetti, torni fra 3 mesi. All'Istituto per i tumori di Napoli, se uno prende i primi 6 mesi di quest'anno rispetto ai primi 6 mesi del 2014, i ricoveri ordinari chirurgici sono calati del 20%. O stanno tutti improvvisamente bene, perché quasi un quinto, o c'è qualcosa che non funziona. In quasi tutti gli ospedali di campagna le sale operatorie seguono l'orario 8-14. Io capisco tutto, ma insomma, ad eccezione delle emergenze. Grazie, Graziella. Funziona anche così a San Paolo di Fuorigrotta, alla Scalesi, nel centro storico di Napoli. Pensate che in quest'ultima, alla Scalesi, la chirurgia generale ha registrato nel 2015 150 interventi in meno rispetto all'anno prima. Ora, di nuovo, stanno tutti meglio a Napoli? Cosa comporta questo, però, al di là di un servizio inaccettabile per chi paga le tasse e per i cittadini campani? Comporta che migliaia di pazienti vadano a farsi curare al nord, con la conseguenza che questo va pagato dal sistema sanitario regionale campano, e in Campania nel 2014 si è avuto un saldo negativo di 281 milioni, visto che ha garantito l'assistenza ai cittadini in altre regioni, cioè quelli che vanno a farsi curare in Veneto, in Lombardia, in Emilia, in Piemonte, sono costati alla regione Campania 117 milioni di euro. Al secondo posto continuiamo con i consigli a Gutgleg. La spending review. Allora, in realtà i consigli basta che parli con il ministro Lorenzin, perché il ministro, attraverso l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, hanno fatto un ottimo lavoro, secondo me, si chiama Agenas. Ha fatto le pulci ai bilanci degli ospedali. Qui il problema non sono i medici, ma sono gli amministratori, le ASL, e chi li ha messi lì e sulla base di quali criteri li hanno messi lì. Già l'altro ieri citavamo il rapporto del Censis spiegando che il problema vero è quello dell'aspetto manageriale. Allora, gli ospedali di 14 regioni, mancano solo Veneto ed Emilia Romagna perché non ci sono i dati, hanno fatto un bel raffronto, perché hanno preso un ospedale inattivo a parità di dimensioni, quindi numero di letti, e lo stesso ospedale con gli stessi letti che perde. Dopo il traffico scopriamo cosa fa la differenza a parità di struttura, a parità di letti ospedalieri. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Allora, vediamo come si fa ad avere un ospedale attivo e un ospedale in passivo. In deficit ci sono in questo paese 29 grandi ospedali. 4 sono in Piemonte, 2 in Liguria, 4 in Toscana, 1 nelle Marche, 9 nel Lazio, 4 in Calabria e poi 1 ciascuno in Sardegna e in Campania. Il buco complessivo vale quasi 1 miliardo di euro. E poi quando arriveranno Veneto ed Emilia probabilmente si arriverà al miliardo. Faccio notare che Roma fa la parte del leone, per modo di dire, leone fa rima con qualcos'altro, perché nel 2014 gli ospedali romani erano in perdita per 700 milioni su un totale di 915 milioni. Ora, per fortuna, nella nuova legge di stabilità La legge di stabilità prevede che i direttori generali degli ospedali, se sono in rosso, hanno 3 anni di tempo per rientrare. Se dopo 3 anni il bilancio è ancora in rosso, se ne vanno a casa. Meno male. Allora, che cosa dà origine a questi buchi però? L'agenzia, per evitare la polemica, ma la sanità costa, ha messo in confronto 4 ospedali, 2 in deficit e 2 no, a parità di posti letto. Allora, San Camillo di Roma ha un disavanzo record, è il numero 1 campione nazionale del disavanzo, 158 milioni di euro solo San Camillo di Roma. Lo confronti con gli ospedali riuniti di Ancona, hanno lo stesso tipo di posti letto, che è leggermente inattivo. Allora, il nosocomio, l'ospedale di Roma ha 4.150 dipendenti. Ad Ancona, sempre per 1.000 posti letto, i dipendenti sono 3.460. Direte poca roba, mica tanto, sono 700 dipendenti in meno. Le spese per i beni e servizi non sanitari. Ad Ancona spendono per mensa, lavanderia, riscaldamento 45 milioni di euro l'anno per 1.000 posti letto. Al San Camillo di Roma, per 1.000 posti letto, spendono 80 milioni di euro l'anno. Poi ti chiedi come fai ad arrivare a un disavanzo di 158 milioni. Spendi 35 milioni in più di chi ha gli stessi posti letto tuoi ad Ancona, non ad Helsinki, ok? Poi si scopre che nel passato a Roma spesso le gare d'appalto venivano date, gli affidamenti e gli acquisti venivano fatti senza gare d'appalto, e mo si capisce qualcosa. Ultimo esempio, Cosenza e Cannizzaro, volutamente sono 2 ospedali del sud, a dimostrazione che non è vero che il sud sia tutto negativo. Uno sta a Cosenza e perde 8 milioni e mezzo di euro l'anno, l'altro sta a Cannizzaro in Sicilia e chiude un po' in attivo. Come mai? Allora, a Cosenza ci sono 700 dipendenti in più rispetto a Cannizzaro, a parità di posti letto. E anche a Cosenza, come nel caso di San Camillo, i servizi non sanitari, per chi è in deficit, per i servizi non sanitari costano 5 milioni di euro in più rispetto al corrispettivo a Cannizzaro. E arriviamo all'ultimo posto della classifica, sono sfinito oggi sulla sanità. E forse anche gli ascoltatori ascoltare queste notizie. Andiamo al vincitore della settimana. And the winner is... Le truffe, è un vincitore di gruppo, è una class action di vincitori, le truffe collettive alla sanità. Furgoncini utilizzati come ambulanze, migliaia di farmaci per l'ipertensione, non posso leggere tutto. Sapete quanto valgono queste truffe alla sanità? Valgono 1 miliardo e 700 milioni di euro tra il 1 gennaio 2014 e il 30 settembre 2015. Ci sono medici a Brindisi, Bari, Lecce, Taranto, 482 medici che hanno indebitamente prescritto farmaci, 15.540 confezioni, per un totale di 194.000 euro in più di aggravio per l'ASL della regione. All'ASL di Brescia hanno speso 1,5 milioni di euro come truffa per la convenzione con alcune società che dovevano occuparsi del trasporto di pazienti dializzati. Avevano richieste di rimborso per oltre 2.000 chilometri, tariffe più alte di quelle massime fisse della regione. Hanno falsato il numero delle persone trasportate. A Bergamo il meccanismo era analogo, con l'aggiunta che anziché i furgoncini venivano accreditate per il trasporto le ambulanze vere e proprie. La finanza di Sulmona ha denunciato i dipendenti della ASL che, dopo aver timbrato il cartellino, tornavano a casa e andavano a fare la spesa. Ma come se non bastasse, c'è stata anche la falsificazione dell'ISE nel maggio scorso. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra. Scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Focus Economia. Alla magistratura 162 persone che hanno presentato dichiarazioni. Ah, siamo di nuovo in diretta, stavo continuando a leggere la lista interminabile, scusatemi. del 1.700.000.000 che ci costa la sanità non inefficiente, la sanità truffata. Stavo concludendo, non so dove ci siamo lasciati perché c'era GR24 in mezzo. Nel maggio scorso a Siracusa sono state segnalate alla magistratura 162 persone che hanno presentato dichiarazioni false e hanno ottenuto esenzione dal pagamento del ticket. A Piacenza è stata scoperta una clinica convenzionata che faceva risultare ricoverati pazienti in realtà curati in ambulatorio, danno accertato 1.200.000 euro. In Piemonte erano state allestite cliniche in un ex albergo di montagna e nell'abitazione del rappresentante di una delle società che aveva ottenuto la convinzione. Quindi ex albergo di montagna, casa sua, ma giustamente si chiama in house, quelli che hanno studiato chiamano, facciamolo in house, e lui l'ha fatto proprio in house, at home più che in house, e aveva ottenuto la convenzione per il trattamento sociosanitario e sborso previsto 3.000 euro a paziente. Antonio Pagliaro, fondatore di Revolution, buonasera. Buonasera a tutti. Tanto due cose che voglio dire, visto che ci accusate, ma voi parlate sempre del sud, non è vero, molte volte nelle nostre start-up, in questo diciamo momento che mettiamo per risollevarci il morale con chi ha accettato la sfida durante la crisi e si è rimboccato le maniche, molte volte ci sono state aziende, start-up del nostro mezzogiorno. Che cosa avete fondato? Cos'è Revolution? Immagino che abbia a che fare con l'olio. Sì, Revolution è l'unica soluzione al mondo per la produzione di olio di oliva espresso a casa. Cioè io mi compro le olive, prendo le olive e faccio l'olio? Sì, olive così naturali, così come raccolte dall'albero, quindi noi le forniamo tutto l'anno grazie a una tecnologia proprietaria che ci permette di surgelarle e possono essere utilizzate per produrre un olio espresso e personalizzato proprio a casa propria. Cioè io la mattina mi sveglio, voglio l'espresso, ma diciamo, la sera arrivo, prendo le olive, qua le battute si sprecano dopo la prima ora che ho fatta sulle olive, però dico prendo le olive, le metto e esce fuori l'olio, capito bene? Sì, perfettamente così. Ma che vantaggi comporta, mi scusi, giusto per... Sì, come ben sa probabilmente l'olio d'oliva dopo 3 mesi si stabilizza, quindi perde l'intensità aromatica, un consumo espresso permette di caratterizzare meglio i piatti. Ma cos'è? È un robot praticamente questo spremitore di olive? Perché? Sì, è simile a un qualsiasi altro elettrodomestico, una kitchen appliance, una kitchen machine. Ecco. E un altro vantaggio è sicuramente la tracciabilità dell'olio, probabilmente sa anche questo, perché il 70% dell'olio italiano extravergine non è né italiano né extravergine, quindi noi garantiamo invece al consumatore finale avere massimo monitoraggio di quello che consuma. Allora, voi avete chi ve le fornisce? Cioè, voi avete fatto anche un accordo con. Tra l'altro, oltre che privatamente, immagino si possa utilizzare anche in un ristorante, a una struttura ricettiva, in un albergo, all'olio delle nostre olive. Però dico, avete fatto un accordo con l'associazione dei viticoltori? Noi per adesso abbiamo un accordo con un'associazione di 6.000 agricoltori calabresi. Ma perché lei è calabrese, giusto? La startup sì. È calabrese. Uh-huh. Sì, assolutamente. Che però verrà esteso per coprire un pochettino tutte le regioni e dare la possibilità di caratterizzare al meglio. Consideri che noi in Italia abbiamo il 40% del patrimonio egemonico mondiale di olive, quindi parliamo di più di 200 varietà che mischiate tra di loro danno dei gusti unici. No, mi sembra una bellissima idea. Adesso non sono un businessman, ma mi dico una cosa. Lei quanti anni ha? 29. E chi vi ha dato una mano? Cioè, avete avuto qualche ente pubblico regionale che vi ha aiutato a sviluppare la startup? Sì, noi siamo nati all'interno di un percorso di accelerazione del Calabria Innova. Calabria Innova, no, bene, perché non è tutto male. Calabria Innova, se vi ha dato una mano, bene, prego. Sì, poi si è seguito la vincita della Startup Initiative di Intesa San Paolo e poi settimana scorsa della Startup Competition, quindi abbiamo ottenuto quella di Capri, dei giovani industriali. Sì. Mm-hmm. Sì, abbiamo dei giovani di Confindustria Capri. Avete vinto? Il premio speciale è nell'ambito di questa Startup Competition di Capri. E poi pochi minuti fa abbiamo vinto il premio Lamarck qui all'interno dell'area SMAU che ci ha ospitato in questi giorni. Ah, perché siete allo SMAU. Senta, quante persone ci lavorano? Adesso interni non nessuno, abbiamo 15 collaboratori però sia tecnici, quindi ingegneristici, ingegneri meccatronici con tanto di PhD e tecnici invece agronomi per quanto riguarda la parte food, Siamo in fase di testing, quindi dovremmo arrivare sul mercato da qui a pochissimo, speriamo nei prossimi semestri. Quando è che inizierete a fatturare? Era questo quello proprio che ho accennato, noi speriamo il prima possibile, nel senso che siamo già al terzo concept che si sta dimostrando molto stabile, quindi se la fase di testing va bene possiamo partire con la commercializzazione nel primo semestre dell'anno. Ma le stanno spremendo le olive alle spalle, sento un rumore, chiedo. No, siamo allo SMAO, stanno smaltendo. Ah, stanno smaltendo lo SMAO, va bene, lasciamo che smaltescano. Mi diceva, mi scusi, inizierete a fatturare? Speriamo nel primo semestre del 2016. E che a break even, quindi a pareggio, con l'investimento di quanto è stato, mi scusi? Per adesso abbiamo investito un paio di centinaia di migliaia di euro, stiamo contrattando con alcuni investitori privati istituzionali per fare un secondo round. Le banche vi hanno finanziato? Non abbiamo avuto supporto, anche se un po' ce la siamo cavati da soli, però non abbiamo avuto supporto apertissime, chiaramente essendo una startup è difficile accedere al credito. Non abbiamo patrimonio di questo però lei lo dà come cosa scontata, invece io mi arrabbio ancora ogni volta, perché se non accede al credito una startup, dare i soldi ai soliti noti, a che serve? Un po' di coraggio nelle banche, un po' di competenza nell'analizzare i progetti, non è che tutte le startup sono buone. In America se non fallisci almeno una volta nella tua vita non sei nessuno, lo dico seriamente, per cui ci sono anche molte startup che hanno delle belle idee ma poi non si concretizzano. Non vogliamo che vengano finanziate tutte, ma qualcuna sì, avessimo trovato uno di questi nostri imprenditori che ha detto ma ha aiutato la banca. Comunque andiamo avanti, break even, quindi il pareggio, mi diceva, scusi? Noi possiamo vantare una struttura flessibile dei costi, nel senso che abbiamo dei fornitori esterni, pertanto in un paio d'anni dovremmo essere al regime. In un paio d'anni. Mi chiedono, ma voi cercate finanziatori in venture capital? Perché mi scrivono alcuni esploratori che vorrebbero finanziarvi. Sì, assolutamente, so dare i miei riferimenti. Siamo qui pronti a discutere. Vabbè, comunque si chiama Revolution, non posso dare il suo numero di cellulare, lei si chiama Antonio Pagliari. Revolution.it. Scusi? Revolution.it. Revolution.it, ok. Mi chiede un'ascoltatrice, spreme a caldo o a freddo? Adesso io non vorrei andare nel porno, prego. No, completamente a freddo, nel senso che ha uno stabilizzatore ha uno stabilizzatore di temperatura che evita di raggiungere i 27 gradi centigradi. Quindi spreme a freddo. Altri dicono mi sembra una cavolata, ma scusatemi, ma perché? No, vabbè, glielo dico. Ma perché, scusatemi, poi arriva un giorno l'Anespresso e ci frega il mercato anche delle olive. Ma perché? Sembrava una cavolata anche le cialde anni fa, infatti abbiamo perso una grande occasione. Ma perché non può essere interessante avere un robot che spreme l'oliva? Non lo so, ma a me interessa che voi vi manteniate in attivo, in pareggio prima e in utile poi, e dia lavoro a qualcuno, magari i 15 collaboratori vengano stabilizzati, anche i due ingegneri meccatronici che hanno un'età media tra i 25 e i 35 anni in una realtà come la Calabria. Perché bisogna essere così negativi? Lo dico a Enzo da Latina, che le piaceva più la prima parte del programma? Allora si ascolti solo la classifica. Bocca al lupo a lei e a tutti i collaboratori. Grazie Antonio Pagliaro. Grazie mille. Adesso parliamo del Sannio, un secondo ancora, lo dico ad alcuni ascoltatori che mi stanno chiedendo del Sannio. Vorrei andare alla borsa, la facciamo con Flavia Carletti di Radio Cori Sole 24 ore, più 0,50% la chiusura di Milano, più 2,5 Parigi, più 2,88 Francoforte, più 1% Londra, più 0,40 il Dow Jones. Sicuramente c'è stato un effetto, soprattutto questa mattina, sulle borse asiatiche di Mario Draghi di ieri, un effetto ben più contenuto a Milano dopo il traffico. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Focus Economia. e 18 minuti. Dunque, dicevo, Milano di almeno 2 punti percentuali più bassa come rialzo rispetto alle altre borse, nonostante Azimut guadagni il 5,80%, Telecom Italia il 5,35%, Ferragamo il 4,40%, Moncler il 3,30% come Buzzi Unicem, il 3% lo porta a casa come rialzo Tods, il 2,70% Mediolanum, il 2,30% ST Microelectronics e Prismian, il 2,12% CNH Industrial e Saipem, il 2% è il rialzo di Mediaset e di Finmeccanica, l'1,80% quello di Fiat Chrysler, l'1,60% quello di Exor, l'1,20% quello di Snam e anche delle Generali e di Enel. Perde UbiBank all'1,20%, Eni meno 1,15%, e qui iniziamo a capire perché l'indice sia un po' diverso rispetto agli altri indici europei. Eni pesa molto. UniCredit meno 1%, Intesa San Paolo meno 0,70%, come la Pop Emilia Romagna, Monte dei Paschi meno 0,36%. Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Unicredit era cresciuta del 7% dal 15 ottobre, c'è sempre il tema Austria, e poi insomma complessivamente come mai il nostro indice si è mosso meno bene degli altri? Prego. Beh, secondo gli analisti una delle cose che ha fatto rialzare poi nell'arco della giornata di più gli indici, in particolare quello di Francoforte, è stata la decisione della Cina di abbassare i tassi di interesse come stimolare l'economia, della sesta misura dell'anno che fanno in questo senso, e il listino tedesco rispetto a quello italiano ha titoli molto pesanti che sono molto esposti sul mercato cinese al contrario dell'Italia, e questo secondo gli analisti è stata la differenza oggi nell'andamento di Francoforte, in particolare poi di Parigi subito dopo rispetto a Milano. Sui titoli, appunto, dicevamo, hai già spiegato perché poi siano stati così divergenti gli andamenti nel giorno in cui abbiamo scoperto che, se ho ben visto, Exor, Fiat Chrysler, scavalca Eni come primo gruppo industriale in Italia, questo per quello che riguarda la classifica di Mediobanca. Vorrei un commento da te anche su Telecom, visto che il rialzo è molto forte. Fiat si avvantaggia, immagino, anche del contratto votato a grande maggioranza, il contratto per il settore automobilistico negli Stati Uniti, di cui Fiat è il gruppo pilota. Però Telecom Italia. Allora sì, Telecom appunto anche oggi è salita del 5,35% dopo aver già guadagnato il 5% ieri, e secondo alcuni commentatori sale l'attesa per la trimestrale di Telecom. C'è ottimismo soprattutto per quelli che saranno i risultati dell'Italia, anche se comunque alcuni ammoniscono che arriveranno conferme sul momento, la fase difficile del Brasile. Però probabilmente ci si è concentrati di più sulle conferme di un di buoni conti per quanto riguarda guarda il mercato italiano. E poi, anche se lo diamo come dato di cronaca, poi ognuno tragga le sue conclusioni, a mercati chiusi è uscita la notizia che Vivendi ha comprato ancora ed è salita oltre il 20% di Telecom Italia. Bollorè intensifica la sua quota, e non solo quella. Allora, i migliori e peggiori per quello che riguarda la borsa: Kering più 13%, Mondo TV più 10,70%, Mondo TV France, Mondo TV Suisse più 9,90%, Club più 8%, fronte opposto Sintesi meno 46%, Dimel Group meno 7,90%, Datalogic meno 3,80%. Grazie e buon fine settimana a Flavia Carletti e ai colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Bombardati di richieste per, allora, dell'imprenditore della macchina che spreme, che fa l'olio in casa con la spremitura delle olive. Bene, sono contento, però allora, si chiama Revolution, e questo è il sito. Adesso però basta, perché sennò è pubblicità, e la pubblicità a Radio 24 si paga, e si paga pure cara. Allora, la nostra inviata nel Sannio, e qui chiudiamo non in bellezza, ahimè, ma con i danni di quanto è successo con le alluvioni e le esondazioni del fiume Calore nella scorsa settimana, che hanno devastato il Beneventino e causato 3 vittime, hanno causato anche molti danni economici. La nostra inviata è appunto Raffaella Calandra. Raffaella, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera a te e al nostro ascoltatore. Iniziano a farsi le stime un po' più strutturate dei danni, ahimè 1 miliardo sul capitolo solo il danni previsti all'agricoltura. Sì, le cifre sono più o meno queste e non sono ancora di sicuro definitive, perché chiaramente ancora ci sono delle zone con delle frazioni interamente isolate e quindi ancora non è possibile avere il quadro completo. Di sicuro, soprattutto per il mondo agricolo, l'alluvione dei due fiumi e ancora di più dei tappeti di pietre che sono piovuti dalla montagna, dal Monte Taburno, ha fatto dei danni senza precedenti, soprattutto nei piccoli paesi ai piedi del Monte Taburno, che vivono soprattutto di produzione di olio, ma ancor di più di vino. Questa è terra di Falanghina e ancor di più di Aianico del Taburno. Io ho camminato per chilometri attraverso strade che erano diventate una sorta di ponti sospesi su ettari e ettari di vigneti abbattuti o di campi allagati, ulivi sradicati, appunto appunto su tappeti di pietra, come vi dicevo, e poi ancora nel fango che ha formato delle colline anche nell'area industriale di Benevento. Questi danni nel mondo agricolo sono ancora più profondi, perché ci vorranno degli anni prima che questi uliveti possano, e questi vigneti soprattutto, possano tornare ad essere produttivi. Fortunatamente almeno gran parte della vendemmia era già avvenuta, sì. Ma ancora ho visto proprio grappoli maturi di uve rosse, che per di più pare che quest'anno sia un'annata particolarmente te lo confermo, una delle poche cose di cui capisco è il vino, per cui ti confermo che è una grande annata. Da viti che sono bloccate però da detriti e pietre da tutte le parti. L'unico conforto di queste realtà, che sono piccoli paesi sopravvissuti ad anni di emigrazione e di povertà, è il fatto che tutti hanno almeno dei risparmi, cioè l'attitudine al risparmio, che rappresenta un punto di partenza, sì, per tutti quanti, piccole realtà. Di sicuro però invocano un aiuto immediato, concreto, e sta ancora in fase di valutazione la proclamazione dello stato emergenza, oltre alla sospensione delle varie imposte. Mm-hmm. Questo per il Sannio era anche un momento particolarmente positivo per i vini, perché, come ci ha detto Libero Rillo, che è il presidente del consorzio Tutela Vini, che qui raggruppa 2.500 imprese, da queste parti, ricordiamolo, si produce più della metà dei vini campani. In questo momento c'è anche un export in forte crescita, con l'anno scorso assegnato più 9%, ci ha detto, possiamo sentire l'intervista. La cosa impressionante nel nostro settore è il numero di aziende danneggiate. Sono aziende molto piccole, con margini bassi, quindi comunque si parla di centinaia di ettari distrutti. Una prima stima parla di 100.000 quintali di uva in meno per l'anno prossimo, per i vigneti che sono stati distrutti. Ma ripeto, sono aziende viticoltrici che hanno perso tutto: terreno, trattori, macchine agricole, qualcuno anche un pezzo di casa. Quindi oggi, domani, queste aziende dove prenderanno i soldi per ripartire? Io dico che se va tutto bene ci vogliono 4 anni. Che percentuale di vino si produce qui nel Sannio rispetto a tutta la produzione campana? Si produce più del 50%, stiamo intorno al 52-53%. Beh, se aggiungiamo, Raffaella, che Confindustria Benevento, come ha ricordato Effetto Giorno ieri, ha 70 imprese ferme, 500 milioni di danni, 500 lavoratori in cassa integrazione, la situazione è molto difficile, e tu ci riaggiornerai anche nei GR24, nel reportage che stai preparando per Radio 24, proprio sulla situazione del Sannio. Io la butto lì, ma perché non comprare tutti il vino del Sannio a questo punto, visto che buona parte la vende? No, adesso non è che è obbligato ubriacarsi, perché sennò viene fuori una denuncia. No, dico che se uno deve scegliere che cosa comprare, così come fu fatto ai tempi dell'Abruzzo, me lo ricordo molto bene, in cui si cercò di comprare i prodotti di quelle aziende, potrebbe essere anche interessante e un'iniziativa non sbagliata andare a cercare, a regalare per Natale, a comprare per le festività, i vini prodotti nella zona del Sannio, sia la Faranghina che l'Aglianico, che tra l'altro sono ottimi, ottimi vini. Grazie a Raffaella Calandra per questa testimonianza molto importante, perché a differenza di altri noi non dimentichiamo, non è che due giorni dopo passata la festa o passata la disgrazia ci dimentichiamo, e ritorneremo anche sui problemi degli agricoltori, degli imprenditori del Beneventano, non Beneventino, ha ragione l'ascoltatore che mi ha corretto. Grazie a Raffaella Granda, ma grazie anche a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Da parte di Sebastiano Barisoni, l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto a chi dovrà passarlo lavorare. Radio 24, la passione si sente.